Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio Di Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. C'è aria di verdetti per il nostro campionato e per la stagione calcistica. Il primo ufficiale che arriva dal turno di oggi, dalla 35esima giornata, è la settima vittoria, che però non evita la retrocessione in Serie B del Livorno, che batte 3-1 il Catania, ma va matematicamente in B. Cosa ha fatto la retrocessione anche del Siena? Perché il Bologna ha fatto un passo determinante verso la salvezza battendo 2-1 in rimonta al Parma nel derby emiliano. Il Siena ha perso 4-1 a Udine, poi vi racconto, vi riepilogo anche i tabellini naturalmente. A questo punto è Bologna 39, Siena 30, a 3 giornate dalla fine. Sono un complicato discorso relativo a una differenza reti praticamente irrecuperabile, tiene in vita il Siena, meno 24 il Siena nella differenza reti, meno 13 il Bologna, confronti diretti pari, una vittoria a testa, 1-0 per il Siena, 2-1 per il Bologna, e quindi solo una questione matematica di differenza reti, ma il Siena è di fatto retrocesso. L'Atalanta a questo punto non è messa benissimo, perché si giocherà tutto domenica prossima nel confronto diretto di Bergamo con il Bologna. Ultime carte per la squadra di Mutti, che ieri ha perso a San Siro con l'Inter, come sapete. E a questo punto manca il secondo tempo, no, della partita scudetto. Il primo tempo lo ha vinto l'Inter, questa sera la risposta tocca alla Roma. E a me pare, non so come la pensate voi, ditemelo, 800240024 è il numero verde, che sia l'ultimo ostacolo, tra virgolette, calcistico sulla via dello scudetto per la Roma, perché sennò la squadra che sta molto bene, motivata, ha l'idea fondata peraltro della qualificazione alla Champions League. Poi la Roma andrà a Parma contro un'avversaria che, cosa può chiedere? Nulla a questo punto, perché anche l'Europa League è piuttosto lontana. Settimo posto è quello che qualifica l'Europa League. Il settimo posto in questo momento è occupato dal Napoli, che ho già fatto 0-0 in casa con il Cagliari, una partita brutta. Napoli 53 punti, Parma e Fiorentina ne hanno 46. A proposito, la Fiorentina, insomma, imbarazzante la partita giocata dai Viola oggi in casa con il Chievo. Viola battuti 2-0. Viola che, dopo la stagione giocata in Champions League, dopo una partecipazione piuttosto assidua nelle ultime stagioni all'Europa che conta, insomma un minimo di voglia di raggiungere pure l'Europa minore per mantenere la loro presenza al di là dei confini, dovevano averla, non sembra. Non so se distratti dalle voci, dalle chiacchiere, dalle illazioni, forse dalle verità relative alla panchina di Prandelli, però questo 2-0 in casa con il Chievo in una partita che loro hanno giocato molto male, si commenta da solo. Poi, per quanto riguarda sempre i risultati di oggi, la Juventus tiene in vita almeno formalmente le sue idee, speranze di quarto posto, battendo 3-0 il Bari, con i gol tutti nel secondo tempo, doppietta di Aquinta che è entrato nella ripresa per cambiare la partita, testimonianza del fatto che dell'energia, della rabbia di Aquinta la Juventus non può fare a meno. Ottavo della ripresa il suo primo gol su imbeccata di Diego, che è stato il migliore tra i bianconeri, quindi al 24esimo rigore trasformato da Capitan Del Piero, protagonista tra l'altro di un acceso battibecco con Zaccheroni in occasione di una sostituzione che Zaccheroni aveva chiamato proprio nei confronti del capitano, con Marchisio a terra infortunato. Del Piero ha risposto in maniera molto dura a Zaccheroni, ma perché cambi me, non cambi lui, cambio, cosa stai aspettando? Il senso è questo. Tra poco parlerà Zaccheroni, sentiremo se avrà da commentare anche questo screzio. 41esimo, chiude la partita con il Bari lo stesso Vincenzo Iaquinta, e Juventus che vede da lontano in realtà ora il quarto posto del Palermo, 4 punti di distacco per i bianconeri, 58 per il Palermo, 54 per la Juventus. In mezzo c'è la Sampdoria, vediamo cosa succede questa sera all'Olimpico, perché la chiave di questa giornata è tutta lì. Quanto agli altri risultati, dicevo della preziosissima vittoria del Bologna sul Parma che era peraltro andato in vantaggio con Biabiani al 23esimo. Bravo Biabiani a resistere al contrasto di Moras e a insaccare un bel diagonale. Poi la svolta al 29esimo del primo tempo con l'espulsione di Zaccardo per fallo d'ultimo uomo su Zalaieta. E quindi Bologna che riesce a rimontare con la doppietta di Di Vaio. 39esimo del primo tempo, quarto della ripresa. I gol che potrebbero essere quelli della salvezza per il Bologna, segnati da Marco Di Vaio, quota 11 se non ricordo male, in questa stagione, che pure ha giocato un po' a spizzichi e bocconi a causa infortuni. Polonia che però ha rischiato nel finale perché Mudingai si è fatto male in maniera definitiva, almeno per questa partita, e non ha dovuto abbandonare il campo. Era solo il 36esimo minuto, Colombo aveva esaurito da 3 minuti i cambi e dunque Bologna negli ultimi 10 minuti a resistere con la parità numerica ristabilita. La Lazio in pratica firma o quasi la sua salvezza vincendo 2-1 sul campo del Genoa. Anche in questo caso Genoa in vantaggio dopo 8 minuti con un diagonale di Palacio, mentre i laziali stavano protestando con l'arbitro per una punizione concessa, battuta a sorpresa con furbizia da Milanetto, gol di Palacio. Poi la Lazio comincia a premere e praticamente prende in mano la partita, non sorprende infatti il pareggio di Dias di testa al 27esimo e nemmeno il vantaggio 31esimo dell'ex Floccari su una difesa genoana al solito parecchio imbambolata. 26esimo della ripresa espulso Bocchetti, ma partita che nella ripresa ha detto davvero poco. A Catania, come ho detto, prima retrocessione ufficiale matematica della stagione, quella del Livorno, che pure batte 3-1 Catania nella ripresa, gol di Lucarelli al quinto su rigore, espulso nell'occasione anche Capuano, quindi il gol forse più bello di giornata. I due gol più belli di giornata sono arrivati da questa partita. 15esimo, Bellucci con un destro al volo all'incrocio dei pali su assist di testa di Lucarelli, quindi Bergwold per il 3-0 al 21esimo, e poi una rovesciata clamorosa addirittura di Maxi Lopez, gol della bandiera per il Catania al 42esimo. Napoli-Cagliari non ha detto nulla se non l'espulsione di Cossu al 35esimo della ripresa. Lavezzi si è fatto male nel primo tempo ed è dovuto uscire, ma non un bel Napoli certo. E quindi l'Udinese, che pure ha praticamente sbrigato la pratica della salvezza battendo 4-1 il Siena e condannandolo. Pepe al 19esimo, quindi il pareggio di Maccarone al 41esimo e poi di nuovo Pepe al 43esimo. Nel secondo tempo segna Sanchez al 16esimo e migliore in campo probabilmente Alexis Sanchez al 36esimo, il gol di Di Natale, 4-1, Di Natale su calcio di rigore. Ora al traffico, poi vi faccio sentire Zaccheroni. Strade in diretta. A causa di un incidente il traffico è bloccato sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e il bivio per la A26 dei trafori verso quest'ultima. Nell'incidente è rimasto coinvolto un furgone. Per lavori invece ci sono code di 2 chilometri sulla A5 Torino-Osta tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Per un altro cantiere, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno in entrambe le direzioni, tra Vicarello e il bivio per la A12. Il nostro numero verde per le vostre segnalazioni, 800 08 3622, strade in diretta, torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Vi faccio sentire Zac. Quanto per la motivazione, perché poi in realtà il fuorigioco c'era, quanto per le modalità, perché Pirondini, il guardaline, era già rientrato verso il centrocampo con la bandierina a indicare il gol regolare. Nulla era stato segnalato, poi dopo qualche secondo il quarto uomo... Si sta parlando dell'episodio di un gol annullato a Diego per fuorigioco, mi sembra abbastanza irrilevante sull'analisi di questa partita, ma sentiamo Zaccheroni. Se fosse arrivato qualche comunicazione al quarto uomo, un po' in stile Zidane ai mondiali? No, io credo che una situazione che l'ha vista è stata valutata direttamente dall'arbitro. Ecco, diciamo innanzitutto che non è qua il fuorigioco. È una decisione sua. Cioè il fuorigioco. Fuorigioco è tiro di Iaquinta che colpisce Diego che si trovava in posizione regolare. Mi sembra legittimo l'annullamento di questo gol in una partita che la Juventus ha sofferto nel primo tempo, in realtà, nonostante un Diego che si è sbattuto come un matto giocando un'ottima gara. Primo tempo molto sofferto dalla Juventus, anche perché giocare lì è fonte di grandi tensioni per i bianconeri. Anche oggi non sono mancate le contestazioni alla dirigenza, gli insulti allo stesso Zaccheroni, insomma non un bel ambiente, non un bel clima per la Juventus. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Iaquinta, la partita si è sbloccata e poi risolta. Di nuovo Zaccheroni. Come è accaduto a Ranieri con Totti un paio di settimane fa, lei non se n'era accorto, forse se n'era accorto, mi sembra che Marchisio abbia detto che stava bene. Io avevo detto col quarto uomo di aspettare, verificare le condizioni di Marchisio. Ho parlato con lui 2 minuti prima, mi aveva assicurato che stava benissimo. Poi cosa sia accaduto francamente non lo so. Ah, c'è qualcosa da chiarire oppure no con Del Piero? No, no, non c'è da chiarire, non è successo nulla. Beh, insomma, è successo nulla. Poi vedrete le immagini, il modo soprattutto in cui Del Piero ha apostrofato il suo attuale, ancora per poco, allenatore. Però, insomma, non è che gli ha detto aspetta un attimo, guarda, vediamo se riesce a recuperare. Non gliel'ha detto esattamente con questo tono. Questione più di forma che di sostanza, ma la forma in qualche caso è anche sostanza. Di nuovo Zach. Poco, quindi... E in mezzo c'era, scusi, Saliamizzi che cercava di fare da paciere, che voleva entrare, sì, perché lui non diceva, entro più, che state detto, guarda non cosa. Entro più, non litigate, me ne sto in panchina. posso entrare nella discussione? Tutto a posto, tranquilli, tutto a posto. Caro Massimo Callegari, buongiorno, siamo ai siparietti, Sì, in attesa che cali il sipario finale su tante storie, sì. Anche in queste carriere importanti, credo ormai. Ti stai riferendo naturalmente a Del Piero, no, più che a Zaccheroni. Sì, anche a Totti. Sì. Ah, perché anche a Totti? Ah, per quella storia di Derby. Sì, di parietto con Menezes, sì, la carriera insomma che è uno dei momenti cruciali questa sera sicuramente, però non è all'alba, ecco. No, senti Massimo, io ti giro un messaggio di Vittoria che condivido, anche se tu lavori come tutti sanno in TV, a Mediaset i posticipi e gli anticipi sono la tua professione, però Vittoria scrive, è un campionato bellissimo ma facciamoli giocare in contemporanea, abbasso le TV, in effetti questa sera sarà l'ultimo posticipo della stagione e sei mio amico, ma io dico finalmente, perché oggi vedere in campo oggi Roma-Sampdoria avrebbe dato un senso un po' più importante, un po' più eccitante a questo pomeriggio. Beh, tanto poi al massimo vengo a lavorare da voi, quindi. Bravo. No, è vero, è anche vero che non tutte le partite, anzi purtroppo sempre meno partite negli ultimi anni hanno un senso da sole, cioè tante gare che noi intravediamo la domenica pomeriggio, di cui vediamo alcune parti e le più rilevanti, seguirle tutte integralmente è sempre più complicato dal punto di vista del fascino che hanno queste partite, della rilevanza tecnica che hanno, da qui l'idea che non sarebbe che non sembra plausibile ma che sarebbe molto corretta, credo, di ridurre perlomeno il numero delle squadre. Cioè, voglio dire, Roma-Sampdoria è un grandissimo posticipo, tante partite di questo pomeriggio sono state dure da seguire insieme e vi capisco, sarebbero ancora più dure da seguire singolarmente, quindi è un discorso molto molto più ampio. E saranno ancora più dure perché da domenica prossima appunto tutte al pomeriggio. Tra due domeniche. Sì. Massimo. Sì. Allora, secondo me stasera è l'ultimo ostacolo calcistico, se mi permetti, sulla via dello scudetto per la Roma. Perché la Sampdoria è una squadra che ha da chiedere a questo campionato, è una squadra in condizione. È una squadra che sarebbe assurdo non puntasse seriamente a un quarto posto che questa sera vincendo sarebbe tutto suo, che questa sera pareggiando sarebbe da condividere con il Palermo in una corsa all'ultimo respiro. No, è verissimo, è anche vero che il Cagliari oggi contro il Napoli ha giocato una partita di grande onore ed è l'avversario alla penultima giornata della Roma, però è vero, è da qualche settimana che affrontiamo questo aspetto che valutiamo questa come l'ultima giornata, a maggior ragione anche per l'Inter dopo che oggi la Lazio ha vinto dal Genoa e la settimana prossima c'è Atalanta-Bologna. Quindi effettivamente questa sera è una partita cruciale in cui la Roma non può permettersi di pareggiare. È difficile sapere e capire quanto la Roma si aspettasse un Inter così agguerrito come quella di ieri, al di là del valore dell'avversario dell'Atalanta, però l'Inter all'inizio sembrava piuttosto smarrita e dopo aver subito l'1-0 la Roma probabilmente qualche illusione di poter giocare questa sera anche accontentandosi del pareggio la covata. Sì, prossimo turno Parma-Roma e Lazio-Inter, sì. Con la Lazio che con la vittoria di oggi a Genova è praticamente salva, no? In fondo alla classifica, ve lo riepilogo per la cronaca, Livorno 29, matematicamente retrocesso, Siena 30, eppure retrocesso non in maniera matematica ma quasi per il discorso della differenza reti che si faceva prima. Atalanta 34, Bologna 39, Lazio Catania 40, Udinese Cagliari 42, sto leggendo naturalmente al contrario, Bari 43, poi le altre ovviamente a posto ampiamente. È finita la lotta in fondo alla classifica, secondo te l'Atalanta qualcosa da dire ce l'ha ancora? Ma Ma è durissima perché domenica gioca contro il Bologna senza i difensori centrali titolari che sono squalificati, che sono Bianco Manfredini, che erano difesa di 7 ammoniti. E poi, anche se dovesse vincere, sarebbe comunque alle spalle del Bologna a 2 punti e avrebbe poi nelle ultime 2 giornate 2 impegni durissimi con Napoli e Palermo. Quindi è molto molto complicata a questo punto, sì, l'avventura della Calabria. Secondo me è quasi tutto risolto in questa in questo campionato. Si tratta di capire chi arriva quarto e soprattutto chi lo vince. Prandelli con Sky. Prandelli con Sky. È una situazione che dobbiamo e sicuramente ci farà riflettere per il futuro. E quindi, che dire, siamo dispiaciuti molto. Era molto dispiaciuto anche il pubblico, so che magari non le farà piacere affrontare l'argomento, però proprio all'indomani del giorno in cui lei ha detto che ha parlato per la prima volta della Fiorentina del futuro, alludendo al fatto che resterà qui, c'è stato questo accenno di contestazione da parte dei tifosi. Le fa male. Raccontaci bene cosa è successo, Massimiliano. In questi 5 anni i tifosi hanno sempre capito. Sì, facciamo, andiamo con ordine, perché ecco, durante la partita, dopo il gol del vantaggio di Pellissier, la curva di fatto si è svuotata e poi alla fine non sembrava neanche di essere in Italia, ma in uno stadio inglese, perché tutto il pubblico fiorentino, quello rimasto sugli spalti, ha applaudito a lungo i giocatori del Chievo, che oggi hanno ottenuto la salvezza. Vabbè, quindi, aritmetica. Delusione. E c'è stato un accenno di contestazione anche dietro la panchina, qualche cane sciolto tra virgolette, con la reazione di Cesare. Ok, grazie. Questi 5 anni il pubblico di Firenze ha dimostrato grande maturità. Io sono convinto che fra qualche giorno riusciremo a smaltire anche questa grossa delusione e penseremo al futuro ancora più uniti, più forti, e sono convinto che possiamo fare ancora bene. Massimo, un po' deludente la stagione della Fiorentina, facendo i conti si fanno alla fine, ma qui già si può anticipare di 3 partite, no? Fiorentina 46 punti, non ha più praticamente chance nemmeno di Europa League, metà classifica, una stagione con i fuochi d'artificio europei e poi con diverse incomprensioni con la dirigenza che se ne va, poi torna, poi dà le dimissioni, poi non si capisce bene. Momento complesso per i Viola. Sì, molto complesso, un po' anche paradossale se pensiamo che la semifinale di Champions è Bayern-Lione e la Fiorentina si è giocata alla pari con entrambe, con i francesi nel girone e con il Bayern negli ottavi. È mancato un po' sempre quel salto di qualità, forse qui qualche responsabilità c'è anche da parte dell'allenatore dal punto di vista proprio dell'autostima e della convinzione finale che la squadra non riesce mai a raggiungere, perché l'eliminazione in Europa, se ci avessero detto la Fiorentina giocherà in Europa una grande partita e uscirà in questo modo, probabilmente in molti avremmo pensato come è poi successo, cioè giocando una grande gara, però essendo sempre in vantaggio, ma mancando poi nel momento finale. A questo proposito è anche strano, o comunque può confermare questa idea, il fatto che la Fiorentina ha giocato meglio con l'Inter, la partita che contava meno, con giocatori meno importanti in campo perché i migliori erano a riposo. E poi non credo sia un reato di lesa maestà ammettere che anche uno dei migliori direttori sportivi del nostro campionato, ovvero Corvino, a gennaio non ha contribuito a far fare il salto di qualità, perché Volati, Felipe, su tutti, oltre a Harrison in parte, non sono stati acquisti determinanti. Certo, in grado di farti fare comunque, di aggiungere qualcosa alla qualità della squadra. Dicevamo, Parma-Roma... Domenica Parma-Roma, Lazio-Inter e poi è finita praticamente, perché l'Inter avrà il Chievo alla penultima, la Roma avrà il Chievo, l'Inter avrà il Chievo in casa alla penultima, la Roma ce l'avrà in trasferta l'ultima giornata, ma il Chievo da oggi matematicamente è salvo, ma insomma era solo una questione numerica. Ha fatto una grande stagione il Chievo di Carlo, però le motivazioni di queste ultime 2 partite ovviamente non saranno quelle del Chievo. Alla penultima c'è Inter-Chievo e Livorno-Lazio, con Livorno già retrocesso. All'ultima giornata l'Inter andrà a Siena, con il Siena già retrocesso. Allora, chi vince lo scudetto? Io non sono bravo nei pronostici, non lo sono mai stato, e quindi qui mi esponi a un'altra figuraccia. Insomma, questa sera probabilmente si può dire che questa sera Totti si gioca moltissimo, si può dire, nel senso che se parte dall'inizio lui e ha sulle spalle buona parte della Roma, dopo il derby, per come si è risultato il derby, per quello che è successo nell'intervallo, per come la Roma è rientrata dopo l'intervallo senza di lui, si può dire che questa sera molto è sulle sue spalle e un po' anche su quelle di Ranieri, che si prende questa ulteriore responsabilità. La Sampdoria è molto forte in casa, però in trasferta ha perso da quasi tutte le migliori del campionato, ha pareggiato con l'Inter, che era però in 9 in quella partita stranissima, quindi anche questo è un aspetto da valutare. Dal punto di vista tecnico e fisico la Roma non è così brillante come le è sembrata all'Inter nelle ultime uscite. Questo è quanto ti posso dire. Poi chi vince lo scudetto non lo so. So anche che è tutto vero quello che ci diciamo da settimane, però è anche vero che in 25 anni qualche Roma-Lecce, qualche Inter-Siena, sì, qualche Perugia-Juve c'è stato. Certo. No, ti dicevo, l'ultimo ostacolo calcistico, e poi restano le suggestioni, no? Resta, sì, Lecce di turno, certo, resta, sì, il Perugia di turno, ovviamente. Ultima cosa, ti giro un messaggio di Giampaolo. Il Barça si sta preparando alla grande per la partita di mercoledì, magliette per invitare i tifosi, addirittura uno spot televisivo. Non penso, Giampaolo, che per questa partita ci sia bisogno di invitare i tifosi, semmai serviranno l'esercito per tenerli fuori dal Camp Nou, ho l'impressione. Però al di là di questo, un comportamento un po' inusuale, soprattutto per una grande squadra sicura di sé, che Mourinho abbia aperto qualche crepa nella corazzata catalana? Può darsi, perché comunque il Barcellona di Guardiola non aveva mai perso una partita con due gol di scarto, e è successo questa volta, e quindi loro sanno che serve comunque una grande prestazione. Poi è anche vero che loro con Guardiola, ottavi, quarti, semifinali dell'anno scorso, ottavi e quarti di quest'anno, a parte la semifinale col Chelsea, hanno sempre fatto un risultato in casa che gli permetterebbe in questo caso di superare il turno segnando 4-5 gol a Lione, Bayern, Arsenal, Stoccarda, eccetera. Però questa manifestazione così esuberante probabilmente mostra anche un po' di timore o di rispetto superiore di quello che il Barcellona poteva avere prima del sorteggio con l'Inter. Sarà molto bello e curioso capire quanto ci sarà quanto c'è di herreriano nell'infortunio di Sneijder, o quanto c'è di vero, perché comunque, sì, se fosse una pretattica ulteriore tipo quella di Rooney con Ferguson prima della partita col Bayern, probabilmente toglierebbe una certezza in più al Barcellona, certo, su come l'Inter giocherà. Certo. E l'impressione che qualcosa di arriariano ci sia è fondata, è molto fondata, e poi vi spieghiamo anche perché. Grazie Massimo. Grazie a voi, buona serata. Alla prossima, grazie Massimo Callegari. Adesso ci fermiamo un attimo, subito dopo, sentendo le voci del dopo partita, naturalmente cominceremo a chiacchierare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, ovviamente numero per i messaggi, 349 238 6666. Dopo la crisi, il nuovo panorama competitivo globale è cambiato. Quali sono gli strumenti e le linee strategiche per accrescere la competitività delle nostre imprese? Lunedì 17 e martedì 18 maggio, in occasione del Global Business Summit 2010, gli esperti migliori di Harvard Business School e Il Sole 24 Ore incontrano l'eccellenza del management internazionale per rispondere alle domande che l'economia si pone. Anche alle tue. Anche alle tue. Invia la tua domanda per il futuro all'indirizzo gbs@radio24.it e potrai avere la possibilità di porla personalmente durante il summit. Per informazioni e iscrizioni, visita ilsole24ore.com/gbs2010 o chiama il servizio clienti all'199 43 00 43. Guardare il mercato con Compass Linea Affari. Oggi è fondamentale avere una visione chiara del mercato per trovare nuove opportunità di business. Con Compass Linea Affari potrete promuovere i vostri prodotti in Italia e all'estero, ricercare clienti e fornitori e valutarne l'affidabilità. Oggi vi basta un solo strumento, Compass Linea Affari. Chiamate il numero verde 800 12 48 12 o visitate il sito compasslineaffari.it. Solar Expo e Green Building, energie rinnovabili, architettura sostenibile e risparmio energetico vi aspettano in fiera a Verona dal 5 al 7 maggio. Solar Expo e Green Building, cresce la nuova economia. Info su solarexpo.com. Mamma, esprimi un desiderio. Vorrei la carrozzina, il passeggino reversibile, il seggiolino auto con base fissa sul sedile, tutto in uno. Chiedo troppo? No, chiedi Baby Ace di Foppa Pedretti. Baby Ace, un sistema combinato veramente unico. Foppa Pedretti ha realizzato quello che le mamme desiderano. E quello era il vecchio cuore della raffineria. Tu sei poi riuscita a cambiare i macchinari? Sì, grazie ai nuovi affari. A proposito, è migliorata la situazione? Ma sto cercando dei clienti, ma di cui potermi fidare? Io mi sono rivolta ad Euler Hermesiak. Il suo servizio di consulenza sull'affidabilità del cliente è il modo migliore per mettersi al sicuro dai mancati pagamenti. Euler Hermes SIAC, gruppo Allianz, è il leader in Italia per la valutazione del rischio, assicurazione e recupero credito. Per info 888 7700 o eulerhermes.it. Sky fino al 30 giugno, più mondiali FIFA in HD, più decoder HD, totale solo 49 euro. Prendi Sky Gold Box a 49 euro, fino al 30 giugno. Abbonati subito, chiama 199 120 128. Info su sky.it/goldbox. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. La perturbazione responsabile delle piogge degli ultimi giorni si sta allontanando verso la Grecia e questo vuol dire che il tempo in effetti è in miglioramento. Tant'è vero che domani, nella prima parte del giorno, godremo del sole in gran parte dell'Italia. Poi però nel pomeriggio aumenteranno le nuvole sulle zone alpine, le zone interne del centro-sud e le isole maggiori, e si formerà qua e là qualche temporale sulle Alpi, l'Appennino, la Sicilia e la Sardegna. E attenzione, perché a fine giornata arriverà una perturbazione che riporterà le piogge su tutto il nord. E per quello che riguarda le temperature, domani massime senza grandi variazioni. Per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it. E per il meteo è tutto. Le richieste impossibili. Vorrei un investimento che mi rassereni sul futuro dei miei risparmi. Come i bot? Beh, i bot rendono poco. Il fai da te è troppo rischioso. Preferirei qualcosa di più innovativo. Sì, e magari con una cedola periodica e senza commissione d'ingresso. Bravo! Ma non è una richiesta impossibile. È Arca Cedola, la soluzione già scelta da migliaia di italiani. Arca SGR, più valore al tuo risparmio. Per trovare la banca più vicina a te vai su arcaonline.it. Offerta limitata. Prima dell'adesione leggere il prospetto d'offerta. C'è un nuovo talento sulla strada. Nasce la nuova Citroën C1 Amici, l'unica con milioni di fan, con sistema audio da 180 watt, presa USB e Bluetooth, dock per iPod e iPhone integrato. Gamma Citroën C1, ora a un prezzo che vince qualsiasi sfida, da 6.900 euro, grazie agli eco-incentivi Citroën, ma solo fino al 30 aprile. Per informazioni, citroen.it. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie Citroën. Da Carlo Lorenzini a Collodi, da Marianna Sofia Calogheropoulos a Maria Callas. Chiamiamo l'evoluzione con il suo nome. Dynameting diventa Repower, energia e gas naturale per la tua impresa. Nuovo nome, stesso servizio su misura. Repower, l'energia che ti serve. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreforma.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. A tempo di sport. Tra un attimo gli ascoltatori, ma sta parlando di Raya con Sky, proviamo a sentire al volo. Che l'abbiamo sempre detto, no? La Lazio a livello qualitativo era una squadra che doveva stare da metà classifica in avanti, ma sai, quando poi cominci a perdere, perdi un po' di sfiducia, in un ambiente un po' particolare, ci sono delle critiche, non è facile poi a trovare i rendimenti adeguati. Questa squadra qua sta mostrando il suo valore proprio in questo periodo. Beppe? Questo era di Reia con la vittoria di oggi, salvezza fatta o quasi praticamente per lui e per la Lazio. 800 24 00 24, io comincio a parlare molto volentieri con gli ascoltatori. Roberto da Catanzaro, buonasera. Buonasera. Sente? Sì, la sento bene. Sì, ecco, io intanto volevo fare i complimenti, per a parte la trasmissione, da interista al Mourinho di Champions League, e vorrei fare delle critiche altrettanto al Mourinho di campionato, perché sì, sinceramente non capisco come il salto di qualità fatto in Coppa Champions dall'Inter sia stato vanificato da questa, come dire, mancanza di concentrazione per quanto riguarda il campionato. Praticamente il campionato è stato, come lei diceva anche nelle precedenti puntate, è stato regalato dall'Inter, è stato conquistato. Ma dalla, aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo, perché aspettiamo quantomeno Roma-Sampdoria, che è la partita chiave della stagione, a questo, di questo finale di stagione, aspettiamo a dirlo. Poi Roberto aggiungerà quello che vuole, però le faccio notare anche che insomma pure l'invincibile o quasi, perché l'Inter ha dimostrato che questo quasi esiste, Barcellona non ha certo chiuso il discorso campionato. Il Bayern è ancora in lotta feroce, era pareggiato per vincere la Bundesliga e per vincere la concorrenza dello Schalke 04, che pure non ha lo stesso organico del Bayern di Monaco. Lione fuori dai giochi per il campionato francese. Il double campionato coppa storicamente non è così semplice, eh. Il dottor Gento pensa che l'Inter sia la vincitrice morale della Champions League a questo punto, perché si può dire che ha affrontato le squadre più forti, eh. Io lo penso così. Ma al di là che una vittoria morale serve a poco e niente, però io penso, sì, che ormai il salto di qualità l'Inter abbia fatto grazie a Mourinho. Io ero molto scettico e critico nei confronti di Mourinho, sì, però io penso che sia vincitrice morale di questa edizione della Champions League. Lei è d'accordo con me? Non lo so, Roberto, la Champions League la vince chi la alza, poi la vittoria morale in fondo conta poco. Ha fatto una grande stagione in Champions League, ha acquistato in quella partita, in quel doppio confronto con il Chelsea, quello che mancava, cioè l'autostima. L'ha sottolineato in settimana correttamente anche Marcello Lippi. In questo momento l'Inter è una squadra che ha grande fiducia nei suoi mezzi, ha grande autostima, ha acquistato in quelle due partite una grande dimensione europea, questo sì. Come ha detto Mourinho dopo il Barcellona, possiamo vincerla quest'anno, si potrà vincere l'anno prossimo, tra due anni, però l'Inter è finalmente tra le big d'Europa e questo lo condivido. Vediamo come va a finire mercoledì sera. Vediamo come va a finire mercoledì sera. Vediamo se gioca Snyder, tanto per cominciare, poi proviamo a scoprirlo. Io ho l'impressione che giocherà. E poi, ripeto, state con noi, vi spiego perché. Certamente l'Inter è tra le grandi d'Europa, va a Barcellona con una missione, io credo, uno scopo, un obiettivo ben preciso, cioè quello di segnare un gol. Barcellona è una macchina da guerra, però fare gol a questa Inter non è poi così semplice, no? Che dite? 800240024, Iaquinta con Sky. Pazzo a seguire i giornali, ogni giorno c'avevi una cosa diversa. E c'avevi un buco nel ginocchio, allora, e c'avevi la tendinite, e c'avevi il menisco. È iniziato col menisco, giusto? No, io ho avuto in un allenamento, mi sono fatto male. In un contrasto, sì, con Chiellini, mi si è rotto un pezzo di menisco esterno. Poi niente, poi quando sono andato dentro il sala operatoria ho visto che c'era anche la cartilagine, che c'era un piccolo buco, ecco. E lì ho dovuto fare delle perforazioni per far uscire sangue. Ed è stato tutto lì. Non so se volete sentire la via crucis di Iaquinta tra dettagli clinici e operatori. A me non interessa tantissimo, quindi passo a Luca da Torino. Sì, buonasera, anche io sono tipo interista, sì. E se non mi ricordo male, il Milan di Berlusconi ha vinto Coppa Campionato solo una volta, e mi sembra nei primi anni 90. Sì, sì, sì. Quindi insomma... Ma la storia lo insegna, storia lo scrive chiaramente, vincere entrambe le competizioni, in quella nazionale e la Champions League, è un'impresa che riesce molto raramente anche alle grandissime squadre, eh. Sì, poi in Italia insomma si può perdere in casa con l'Ascoli, mentre in Spagna è impossibile perdere in casa con lo Xerx, insomma. Sì, ecco. Luca, questo luogo comune secondo me è stato un po' ridimensionato in realtà nelle ultime stagioni. Anche in Italia mi pare che insomma la qualità della classe media sia molto scesa. E poi comunque volevo tornare a fare un salto indietro, sì, riguardo alle date, cioè Fiorentina-Milan del gennaio, secondo una norma di regolamento, dovrebbe essere stata recuperata nella prima data utile, diciamo entro 7 giorni. Sì. È stato tutto uno spostamento, come se volessero mettere il bastone fra le gambe all'Inter, che, sì, ha giocato la partita di Coppa Italia. Certo, c'è stata una sottile battaglia psicologica, un gioco di pressioni, no, per cercare di collocare, di tenere sotto pressione l'Inter da parte di quel Milan. Poi non è stato il Milan a dire la partita la giochiamo lì, è venuta così, scatenando mille polemiche che però sono state ridimensionate, no? Poi mi pare dall'andamento del campionato, no, dico casualmente, dico poi insomma se Mourinho semina qualcosa si raccoglie, sì, se no mi farò prestare la maglietta da un milanista con zero titoli, però io sono soddisfatto di aver visto, diciamo, da gennaio ad oggi giocare domenica, mercoledì, diciamo, mi sono sempre divertito abbastanza, e quindi spero che si ripeta così anche gli altri anni, perché con la regola della semina, prima o poi si raccoglie, insomma. Sì, sì, non ho capito benissimo dove volesse arrivare questo discorso, però a proposito delle date, mentre mi segnalo dalla regia, e lo dico con grande piacere, promosso giornate dei Verdetti, promosso in Serie B matematicamente il Novara, che ha fatto una stagione da record praticamente. No, dicevo, la questione delle date, tante polemiche sono state fatte sulle date. Si può notare anche che il Barcellona, nube o non nube, a Barcellona è stato messo un durissimo derby contro l'Espagnol, come vi ricorderete la settimana scorsa, alle 20 di sabato, prima di affrontare il viaggio in pullman verso Milano. Quindi a me è venuta in mente subito quella lontana polemica innescata da Mourinho sul fatto che però noi giochiamo alle 20:30, sarebbe meglio giocare alle 18, insomma una questione di ore. Lì al Barça hanno detto: senti, tu giochi il derby con l'Espagnol, botte da orbi, tra l'altro un pareggio che ha messo in ampia discussione il titolo nella Liga, e poi viaggio in pullman verso Milano, nessuno sconto. Quindi insomma, parlare di date, vabbè, lascia un po', secondo è un po' stucchevole a mio parere. Traffico, poi Andrea da Firenze, 800 24 00 24, numero verde, siamo qui. Pubblicità. Il conto di che banca? Il conto di che banca? Un euro al mese e non hai mai sorprese. Con un euro al mese si può gioire, oh evviva, evviva. E in tutto il mondo puoi prelevare. Il conto corrente di che banca ha un canone di un euro al mese, senza sorprese. Per i fogli informativi 848 444 4488 o chebanca.it. Che banca? Gruppo Mediobanca. Strade in diretta. A causa di un incidente avvenuto all'altezza di Novi Ligure è completamente chiusa la diramazione Predosa-Bettole tra il bivio per la A7 e quello per la A26 dei trafori verso quest'ultima. Si è ribaltato un furgone che trasportava cavalli. Per lavori invece code di 2 chilometri sulla A5 Torino-Aosta tra gli svincoli di Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Per un altro cantiere rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e il bivio per la A12 in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si rallenta sulla A12 Genova-Livorno verso Genova tra Rapallo e Genova Nervi e sull'Autosole nella zona di Firenze in direzione Bologna. Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Intanto Chelsea e Manchester United sono fuori dalla Champions League, però si stanno scannando per il titolo di Premier League. Ieri sorpasso dello United, 79 contro 77, adesso è in corso la replica del Chelsea di Carletto Ancelotti, che sta già vincendo 3-0 con lo Stoke City e dunque è già virtuale controsorpasso, 80 contro 79, non solo in Italia, non solo Roma e Inter dunque. Una battuta di Lucarelli che è retrocesso oggi con il suo Livorno. Veramente sotto ogni punto di vista. Ma compra, dice Mario di comprarsi un Livorno. Non ho quelle possibilità lì economiche. Un'ultima cosa velocissima, Cristiano. Cosa pensi di quello che ha detto Maroni? Daspo per i giocatori violenti. Che ho visto a volte fare a schiaffi anche al Parlamento, se mettono il Daspo anche lì siamo tutti più contenti, siamo tutti più della stessa maniera. Questa è bella davvero di Cristiano Lucarelli, giocatore e personaggio che a me è simpatico, che divide, che a molti di voi non lo sarà, ma che a me, al di là delle politiche di cui non mi può importare di meno, però lo trovo comunque uno che dice delle cose e non capita spessissimo con i protagonisti del pallone e dello sport in generale. Del Piero, cosa sta dicendo? Esatto, arriviamo subito, andiamo un attimo a Genova con Matteo Petrucci. Prima Gasperini e prima di Gasperini andrà da Firenze. Gasperini, buonasera. Buonasera, salve. Tutto condiviso il parere su Lucarelli, insomma, un personaggio straordinario per me, al di là delle doti tecniche. Io sono un tifoso interista e sarò abbastanza breve, ma le pongo 3 quesiti. Prego. Secondo me una piccola pecca di Mourinho, ma forse dell'Inter in generale quest'anno in campionato, è stata quella di non fare un grande turnover negli ultimi 2 mesi e mezzo, eccezione fatta per ieri. Io credo che Mourinho abbia fatto giocare da gennaio sempre i soliti 13, massimo 14 giocatori. Mi permette una replica secca? Prego, però l'Inter sta bene fisicamente. No, no, sono d'accordo, però vedi, nei momenti chiave qualche giocatore secondo me era un pochino più sottotono, vedi anche magari gol sbagliati facilmente da Milito, Eto'o, stessa cosa al centrocampo, secondo me magari far rifiatare un pochino di più poteva essere meglio, in mia opinione. E seconda cosa, cosa ne pensa di Arnautovic, visto che ieri si è visto un 10 minuti di un giocatore che dava un'iniziativa buona, insomma prendeva la palla, provava il tiro, quindi anche di personalità. E l'ultimo quesito, io la butto lì, lei che ne pensa, un fantacalcio, un sogno, dare Balotelli a Liverpool e prendere Torres e Gerrard? La ringrazio. Torres e Gerrard? Sì, chiaramente. Ma Balotelli non basta, ci vuole... No, vabbè, chiaramente magari Maldonati dà anche un po' di quattrino, come si dice a Firenze. Qualche quattrino sì, Andrea, giusto qualche, perché io credo che Balotelli possa essere solo l'inizio per arrivare a Torres e Gerrard. Non lo so, Balotelli entrerà in ogni discorso di mercato, io credo, poi magari alla fine resta all'Inter perché va via Mourinho, io sono abbastanza convinto, ho sempre questa sensazione, perché Arnautovic... giocatore di grande talento, non mi sembra che abbia esattamente la testa per diventare un campione, altrimenti con tutte le acrobazie che abbiamo visto fare a Mourinho con Balotelli ai margini della squadra e con il mancato turnover cui lei faceva riferimento, un giocatore utile e funzionale avrebbe certamente trovato spazio. Arnautovic non l'ha trovato e questo mi porta a pensare che l'Inter a un certo punto era anche intenzionata a cederlo a stagione in corso. Tutto questo mi porta a pensare che il talento da solo non può bastare. Ma sentiamo, adesso voglio sentire cosa dice Del Piero, diciamo sempre ai microfoni di Sky. Magari insomma si nota delle cose che chi è fuori non nota, che Marchisio avevi crampi da un po' e tu insomma l'hai fatto notare in un modo abbastanza forte, diciamo così. Concitato? No, diciamo che io mi sono tolto la faccia per andare da Gigi a dargliela e ho visto poi Claudio a terra e quindi... Non, c'è stato un momento di misunderstanding perché il cambio comunque era stato chiamato, allora non riuscivo a capire se dovevo aspettare, uscire, fare. Poi Claudio purtroppo non ce l'ha fatta, è uscito lui. Meglio così alla fine, perché accadeva che la sostituzione un minuto prima probabilmente avremmo giocato in 10 per un quarto d'ora, quindi va bene così. Certo, perché era l'ultima disponibile. Al di là di questo, se si è rivista una bella Juve, è il momento di pensare anche purtroppo a rimpianti, perché avervi avuti tutti a disposizione nell'arco della stagione, insomma le cose sarebbero diverse adesso. Sì, ma quello degli infortuni, che è una delle cose più eclatanti, non abbiamo mai preso come alibi. Ma ahimè è vero, è un dato di fatto, quindi non è che possiamo. Non c'è solo quello, ci sono tante altre cose che non hanno funzionato, che non abbiamo fatto funzionare e siamo nella situazione in cui siamo. Ora abbiamo vinto oggi, siamo felici, insomma, per quello che può essere la giornata di oggi e poi dobbiamo continuare a farlo nelle prossime tre partite e incrociare le dita da altre parti. Però senza pensare troppo agli altri campi dobbiamo affrontare le nostre gare che sono gare difficili e comunque noi non è che in quest'anno abbiamo dimostrato di vincere facili le partite, purtroppo. Fabio? Questo è Del Piero, lui lo chiama in maniera molto britannica misunderstanding, poi guardatevi le immagini al di là della lettura labiale che è una cosa sempre abbastanza antipatica, però l'atteggiamento e il modo in cui Del Piero ha rimbrottato il suo allenatore, guardatevelo e poi venitemi a parlare, venitemi a raccontare, venitemelo a dire, a parlare di misunderstanding del capitano. Dunque adesso facciamo un salto molto rapido a Bologna e poi a Napoli. Prima a Bologna, da Emilio Butaro, dove il Bologna vince questo derby e praticamente si salva. La parola salvezza rimbalza negli spogliatoi o no, Emilio? Diciamo più che altro nei sorrisi che hanno ritrovato alcuni personaggi chiave dell'ambiente rosso-blu, soprattutto Di Vaio tornato al gol, autore di una doppietta che ha consentito al Bologna di ribaltare il risultato, ma anche nei 24.000 tifosi che oggi hanno riempito il Dall'Ara e poi anche per quanto riguarda il massimo dirigente Francesca Menarini, ha detto è stata una partita che volevamo vincere. Per quanto riguarda il prossimo impegno andiamo a Bergamo con 5 punti di vantaggio. questo ci rasserena. Di tutt'altro umore invece il Parma. Guidolin sicuramente oggi non ha celebrato nel migliore dei modi la sua 400esima panchina in Serie A. L'episodio chiave è sicuramente l'espulsione di Zaccardo. Eravamo sull'1-0 per il Parma, una battuta velocissima con il collega Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Sei d'accordo, Sandro, nel dire, come del resto ha affermato anche Francesco Guidolin, che l'espulsione di Zaccardo sull'1-0 per la formazione ospite è stata probabilmente l'episodio che ha deciso la gara? Sì, è stato l'episodio che ha cambiato. Il Parma è già in difficoltà di organico, alla fine dopo 10 minuti si è fatto male anche Paci. Queste due cose hanno dovuto obbligatoriamente far decidere Guidolin per l'utilizzo dei Gigli, un giovane di 19 anni della primavera che ha debuttato, ahimè, con un errore che poi ha costato la partita al Parma, e quindi effettivamente ha cambiato la partita. In Bologna ha giocato molto, secondo me, su questa difficoltà del Parma. Grazie a Sandro Piovani. Il presidente ha anche detto domenica: vi aspetto in tantissimi tifosi rosso-blu per la delicata trasferta di Bergamo. A te, Carlo. Grazie, benissimo, Emilio Buttaro. C'è un ascoltatore da San Giovanni Rotondo che scrive, si chiama Matteo: sembra che il Barça prema per avere un arbitraggio più morbido del cartellino facile. Arbitrerà Barcellona-Inter l'olandese De Blecker, che è un arbitro internazionale di grande fama, si è fatto molto chiacchierare sulla prepartita, sulla preparazione di questo Barcellona-Inter da parte catalana per pressioni. Mourinho ha detto la gara di ritorno è già iniziata nel tunnel degli spogliatoi, come sapete, le grandi lamentele dei giocatori blaugrana, la campagna stampa spagnola, soprattutto catalana, dopo la partita di San Siro, insomma tutte cose, e poi si arriva a quella maglietta che mi sembra, poi ne parliamo, l'episodio più significativo, no? La maglietta nera indossata ieri dai giocatori del Barcellona che hanno battuto lo Jerez, ultimo in classifica della Liga, 3-1, e poi hanno indossato tutti quanti questa maglietta con una scritta emblematica: pronti a giocarcela fino alla fine. Enzo Danna a Napoli. Enzo, la parola Champions League credo non rimbalzi più invece nei corridoi del San Paolo. Sì, buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio agli ascoltatori. È proprio così, il sogno Champions in pratica si è infranto oggi contro, possiamo dirlo letteralmente, la barriera del Cagliari, che qui al San Paolo voleva un punto e l'ha ottenuto. Il Napoli ha creato tantissime occasioni, ai punti avrebbe strameritato la vittoria, ma proprio questo paradossalmente è il grande limite, no, di questa squadra, cioè quello di sprecare nel corso di una partita un numero considerevole di palle gol e poi alla fine rischia, magari come è successo anche contro il Parma, di perdere. Oggi Mazzarri per la verità ha parecchi attenuanti, perché era già privo di Quagliarella in maggio, che reduce da un infortunio è partito dalla panchina. Dopo 20 minuti è stato costretto a rinunciare anche alla Vezzi, ha fatto entrare Bogliasino, che non è il Pocio, e si vede. Il Napoli dunque si è visto passare davanti questo treno della Champions, l'ha perso, tuttavia resta in piena corsa invece per l'altro treno, quello dell'Europa tra virgolette in chiave minore, cioè l'Europa League. Possiamo dire che un po' di mesi fa, dopo l'inizio disastroso che, come ricorderai, portò all'esonero di Donadoni e all'arrivo di Mazzarri, era assolutamente impensabile. Insomma, c'è rammarico per questa grande occasione, forse irripetibile, capitata quest'anno con tante squadre tipo Juventus, Fiorentina, che hanno fallito, diciamo, la loro stagione, almeno per quanto riguarda le primissime posizioni. C'è rammarico per non essere riusciti ad agganciare il treno Champions, però c'è anche, come dire, soddisfazione, perché in qualche modo il Napoli può tornare comunque in Europa. Grazie Enzo Danna, grazie Enzo Danna da Napoli. Ci fermiamo per sentire il GR e poi naturalmente torniamo per un'altra ora insieme, e allora proverò a spiegarvi, a farvi raccontare, soprattutto dopo la giornata di allenamento da parte dell'Inter, perché c'è molto di errariano nell'infortunio di Sneijder di ieri dopo la partita con l'Atalanta. Proverò a farvi raccontare anche la giornata di Balotelli, che oggi è andato lì e si è allenato con tutti gli altri, è arrivato con la macchina di Raiola Balotelli, i tifosi l'hanno ignorato, non c'è stato alcun problema. Curioso di capire se volerà a Barcellona. Poi andremo anche in Spagna a capire invece come sta quel Barcellona e a farci raccontare quella maglietta nera con scritto in catalano. Ci giocheremo la pelle, tutti invitati al Camp Nou mercoledì sera. tempo di sport. Notizie flash da altri sport prima di tornare al calcio. C'era Liege Bastoniege, l'ha vinta Vinokurov, quindi agli europei di ginnastica di Birmingham Matteo Morandi ha vinto la medaglia d'oro negli anelli. E poi c'è il grande tennis femminile, la grande Italia del tennis femminile, 5-0 alla Repubblica Ceca e finale di Fed Cup, la quarta in 5 anni. Torniamo a temi calcistici. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire. Io saluto e ringrazio intanto Nicola Cecere, amico e inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Nicola. Ciao a te e agli ascoltatori. Oggi per la Gazzetta hai raccontato del Milan che si è sgonfiato totalmente a Palermo. Un Milan che qualche punto però da qui alla fine deve anche farlo, perché è terzo senza grandi discussioni, però vistolo ieri sera non ha una bella faccia il Milan, eh? Sì, non ha una bella faccia, soprattutto se la Sampdoria sbancasse stasera all'Olimpico, il Milan si ritroverebbe la Sampdoria a 4 punti. C'è da dire comunque che il risultato della Fiorentina di oggi annacqua molto le difficoltà che avrà il Milan poi domenica nel battere la Fiorentina, perché la Fiorentina oggi si è chiamata fuori praticamente da un traguardo europeo, insomma, sì. Dato alla sua stagione proprio là. Caratteristica della delusione finale, quindi questo aiuterà sicuramente i rossoneri, che a Palermo hanno giocato con un'intera squadra in infermeria e con una difesa messa molto male. Noi ci siamo permessi di osservare che se Otto, che ha sempre fatto in carriera il terzino destro di spinta, sì. Tra l'altro deve fare lo stopper, tanto vale far giocare uno stopper. Bravissimo. Di ruolo di 20 anni che si chiama Albertazzi, e vediamo sto ragazzino, sì. Com'è. Considerazioni che a me erano scappate anche domenica scorsa, quando nell'intervallo Oddo centrale c'è Albertazzi in panchina, 18 sì. Anni sembra uno molto bravo, se non lo fai giocare adesso, quando lo fai giocare? Esatto. Vale la pena, perché tanto hai visto il rendimento, quando tu adatti uno che per tutta una carriera ha fatto un ruolo, devi adattare là, tanto vale che metti un ragazzo che quel ruolo lo fa di mestiere e che soprattutto è giovane, vuole affermarsi eccetera, c'è anche l'entusiasmo. Certo. Senti, l'ambiente Milan che impressione ti fa in questo momento? L'ambiente Milan è un ambiente in attesa degli eventi, io penso che comunque questa squadra abbia fatto il massimo di quello che poteva fare quest'anno, considerate anche le molte avversità che ha avuto. Milan e Juventus hanno avuto un record di infortuni, veramente una cosa allucinante. E nei confronti dell'Inter, tra l'altro, avevano anche una rosa ridotta, non nei confronti della Roma, che è quella che ha fatto meglio di tutte, e però il Milan è in attesa degli eventi. Tutti i giocatori sanno, come ha detto anche ieri sera Seedorf parlando in TV, che Leonardo se ne andrà. Tutti i giocatori non hanno capito su chi cade la scelta della società, se sarà una soluzione interna o se l'allenatore verrà da fuori. Tutti i giocatori hanno capito che dovranno fare, molti di loro, ancora una stagione qui, perché la società non ha tanti soldi da investire, che questa è una squadra che dovrebbe essere rifondata, parliamoci chiaro, dovrebbero arrivare 7, sì, 8, certo, 9 giocatori, certo. Nuovi, più giovani, abbassare il livello di usura, perché non è tanto, guarda, una questione atletica, in quanto poi la squadra ieri ha messo il Palermo alle strette nel secondo tempo. Io l'ho vista molto quest'anno il Milan, e spesso i secondi tempi sono stati migliori dei primi tempi. Insomma, non è tanto un fatto di incapacità di correre, di stanchezza, cioè, è proprio un'usura mentale. Certo, certo. Ci sono tanti giocatori carichi di gloria, di successi, di trionfi, che sono usurati mentalmente, e quindi a questo punto devi ribaltare la situazione. Per ribaltare devi comprare 8-9 giocatori di alto livello. I soldi per comprare 8-9 giocatori di alto livello non ci sono. E quindi è una squadra che è destinata a vivacchiare ancora una stagione almeno, col traguardo della Champions, che è quello che dà respiro alla società, che consentirà di risanare. Io penso che si vada poi alla cessione del club. Mi sembra che stiano facendo un'intelligente opera di rientro delle esposizioni, di risanamento, per poterlo vendere anche bene. Insomma, penso che questo ciclo Berlusconi sia destinato a finire nel giro di una, massimo 2 stagioni. Anche se, nonostante le continue smentite, a questo punto quasi di facciata, che arrivano non appena saltano fuori queste voci. Nicola, cambiamo argomento, ti voglio far sentire una cosa. Ieri, dovendo parlare di Balotelli per l'ennesima volta, E avendo voglia di fare in modo un po' diverso, ho chiamato il maestro Oliviero Toscani. Senti cosa mi ha detto. No, è che siamo tutti un po' dei Balotelli, insomma, però ci piace così incazzarci, fare reagire Balotelli. È chiaro, Balotelli è esattamente la pirlagine, è uguale al suo talento. Quindi, sì. Allora, se si vuole Balotelli arriva anche così. Balotelli, io non l'ho mai scusato, Mourinho ha ragione, Balotelli ha talento, ma è pirla. È pirla, no, fa il pirla, perché essere pirla, poi io non posso, non lo giudico nella sua, lo giudico della cerchia che fa. Io credo che la grande fortuna dell'Inter sia il Massimo Moratti. La bontà di Massimo Moratti riuscirà a risistemare tutto. È veramente non è una roba da prezzo, assolutamente. Io ieri avrei morsicato le orecchie. ieri gli ha fatto la guardia del corpo, perché l'ha portato via praticamente di peso da Piano, guarda, Gentile. Io credo che gli abbia detto: guarda, vai a casa, stai bravo, stai buono là, non muoverti, non innervosire nessuno. Sentito Nicola, Oliviero Toscani? Sì, sì, ho sentito, è un aspetto che ha messo in luce, che certamente esiste in questa vicenda. Se vuoi un mio commento, io ti dico che Balotelli è un caso un po' più ampio, nel senso che dobbiamo anche capire un po' tutti i disagi psicologici di un ragazzo che viene adottato, ma che sa che poi ha dei genitori naturali, e che quindi che cosa succede? Succede che i genitori acquisiti lo viziano, perché se io papà vizio mio figlio di sangue, figuriamoci, vizierò tre volte di più il figlio adottivo. E poi questo qui, quindi praticamente nella sua nuova famiglia fa tutto quello, perché ha questo talento, a 10 anni già mette in mostra questo talento, quindi viene trattato in maniera tre volte superiore a quella che normalmente tu potresti trattare un bambino adottato. E dopodiché arrivano fuori ai 17 anni i genitori naturali e dicono: ma non ti dimenticare che ci siamo noi, Cassia, ti abbiamo creato noi, ti abbiamo messo al mondo noi siamo i tuoi genitori. Allora immaginati che sconvolgimento emotivo questo ragazzo, che intanto cresce, si sviluppa, diventa un gigante, ma che resta molto fragile e molto bambino dentro. Mi sembra un ragazzo ineducato, nemmeno male educato, proprio ineducato, un ragazzo che non ha avuto una educazione. Sì. Ho parlato anche con i suoi vecchi compagni della primavera, delle giovanili dell'Inter, e mi hanno confermato che al di là di questo corpo da gigante, di questo fisico da titano, lui aveva paura dei ragazzi della primavera più grandi, prendeva le cosiddette scoppole dietro la nuca da questi qui e si stava zitto. Quindi è un complesso di emozioni che si porta dietro questo giocatore. Poi se tu passi la tua vita con delle persone vicine che ti dicono che sei leggermente, ma proprio leggermente inferiore a Pelé, e forse Maradona c'ha di che imparare da te, perché allora è chiaro che puoi andare incontro a questo tipo di atteggiamento. Trovi Mourinho che non te la fa passare. Sì, e non te la fa passare, trovi comunque i compagni di squadra che pure te la fanno passare raramente, perché mi sembra un atteggiamento molto duro a questo punto, anche quello dello spogliatoio dell'Inter. Grazie Nicola, a presto. Ha nominato. Perché se tu vedi, e tu che c'ha 30 anni, ha vinto le Coppe dei Campioni, che deve farsi 70 metri di corsa per andare a potturare una falla che si sta aprendo sulla destra, mentre Balotelli rientra ciondolanto, tipo tartaruga, e poi dopo, finita la partita, quelli dicono: oh, qua ci stiamo giocando la vita e tu fai il cretino. Noi ti spacchiamo in due, non hai capito qua dove sei? Sì. È chiaro che è così. Sì, sì, no, è chiaro che è così, non è nemmeno un segreto, perché sappiamo bene cosa è successo in quello spogliatoio, anche se non ce lo raccontava, Ibrahimovic, insomma. Sì. Grazie Nicola, a presto. Ciao, grazie. Cose, un saluto a tutti. Grazie a Nicola Cecere, traffico, che siamo in ritardo, poi ascoltatori. Strade in diretta. A causa di un incidente avvenuto all'altezza di Novi Ligure, completamente chiusa la diramazione Predosa-Bettole tra il bivio per la 7 e quello per la 26 dei trafori verso quest'ultima. Chi viaggia dunque verso il ponente Ligure deve proseguire fino a Genova lungo la A7 Milano-Genova. Code di 5 km ora in diminuzione per un incidente risolto sull'autosole tra Incisa e Firenze e Scandicci in direzione Bologna. Per un altro incidente ci sono code di 2 km sulla tangenziale nord di Torino tra Bruer e lo svincolo per la statale 24 in direzione della A4 Torino-Milano. Per lavori invece code di 2 km sulla 5 Torino-Aosta tra gli svincoli di Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Code per lavori anche sul tratto friulano della 4 tra Redipuglia e Villesse verso Trieste, sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Colle Salvetti e Lavoria verso Firenze. Traffico di rientro in aumento sul resto dei percorsi, code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna, rallentamenti sulla 4 tra Desenzano e Brescia Est verso quest'ultima. Sulle autostrade liguri si rallenta in direzione Genova sulla 12 a partire da Chiavari e sulla 10 tra Spotorno e Savona. Rallentamenti anche in direzione Milano sulla diramazione Gallarate-Gattico e alle porte della capitale sulla diramazione nord lungo la 24 Roma-L'Aquila-Teramo. È tutto per il momento, il numero verde infine per le vostre segnalazioni è 800 083622. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Giocare aiuta a spezzare la routine del lavoro quotidiano e può dare anche delle soddisfazioni. Per questo è nato un sito tutto italiano dove è possibile trovare tutti i giochi che appassionano chi ama le sfide. Youbet.it. Calcio, ippica, poker, blackjack, gratta e vinci e lotterie istantanee in un'unica scatola dei giochi che garantisce vincite ogni giorno e che è facile da capire perché tutta italiana per offrire a chiunque sicurezza, comodità e serietà. Youbet.it raccoglie tutti i giochi in un unico sito, finalmente tutto italiano. Youbet.it. A tempo di sport. So che ognuno ha la sua da dire sulla questione Balotelli, naturalmente l'argomento più trasversale del momento, una specie di reality. Si è cacciato da solo sull'isola del famoso, come dicevo ieri, in compagnia solo di Venerdì, sua agente Mino Raiola, e tutti sono lì a guardare quello che fa. Insomma, ogni movimento monitorato, ogni espressione monitorata, ogni parola monitorata. È l'argomento di conversazione del momento, ma che col calcio c'entra a questo punto davvero poco. Federico da Pisa, poi Paolo da Roma, nuovi ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde. Federico? Sì, io sono tifoso milanista, volevo fare due osservazioni, una prettamente sul Milan, cioè che secondo me Leonardo è super difeso, super valutato, però insomma sia mandando gente in campo come Abate e Antonini, che secondo me sono proprio scandalosi, cioè per non parlare di insomma Antonini ferma con il Manchester a metà campo, se ne frega e permette il secondo gol, il primo, insomma se ne è visto di tutti i colori, insomma. Sì, mi sembra, Federico, però mi sembra un po' ingeneroso onestamente, perché sono due ragazzi che per la prima volta giocano a questi livelli e francamente vistolo ieri non mi sembra che Zambrotta sia molto meglio, no, però onestà. Vabbè, capito, però Antonini il giovane, 27 anni, cioè, sì. Allora, no, ma era del Barcellona sono, è un po' meglio forse, sì, no ma sono d'accordo sul fatto, anche l'anno scorso si diceva perché cioè, abbiamo lì non li facciamo giocare, un conto è far giocare i giovani di livello, qualità, e bravo, giovani di qualità e di livello, evidentemente quelli che ha il Milan a sua disposizione, anche perché il settore giovanile non è stato esattamente il centro dei pensieri del management rossonero negli ultimi anni, adesso il trend è un po' cambiato, si è tornato ad investire anche lì, insomma è un discorso un po' complesso, però mi sembra vagamente ingeneroso dire Abate e Antonini scandalosi, perché mi sembra che anche gli altri, che anche i veterani non siano esattamente affidabili in questa stagione. Ritornerà Costa Curte, Maldini ritornerà. Magari sì, magari sì. No, la seconda cosa, un'osservazione, cioè al di là del, diciamo, del politicamente corretto, se prendiamo le nazionali come una rappresentazione del calcio di ogni paese, cioè a me la nazionalità, la cittadinanza non è una cosa che uno dovrebbe comprare al supermercato, cioè per avere un'idea, quello che è il calcio, per dire, africano, che è molto veloce, molto bello sotto certi aspetti, è rappresentato da alcuni giocatori, cioè è assurdo per esempio se domani avessimo, per assurdo dico, una squadra di 11 Balotelli, fortissimi, bravissimi, però non sarebbe più un calcio italiano, cioè quindi questa storia di, diciamo, questi calciatori, quello che sposa... Cosa quello... c'entra, mi scusi, ma cosa c'entra Balotelli? Balotelli è italiano? È italiano, vabbè, però diciamo non è che può, diciamo, può rappresentare italiano in questo senso, cioè una cittadinanza. Perché no? Ma perché no? Perché non può rappresentare il calcio italiano? È un ragazzo che è nato in Italia, è cresciuto in Italia, è italiano esattamente quanto me, forse anche più di me, Non capisco questo discorso. Non lo capisco. È italiano. Se io ora sposo, per dire, una, oppure vi faccio adottare da non so di dove è ora, da un altro paese, cioè dalla Cina, rappresenta il calcio cinese, caratteristiche anche fisiche, anche qualitative. Ma cosa c'è? È senza polemica. Ma quale gioco? Lui è uno, è un ragazzo che è nato in Italia, è di colore, è nato in Italia, è italiano. Che c'entra tutto questo? Mi sembra un discorso vagamente razzistico questo, Federico, mi perdoni. È semplicemente un giocatore di un talento pazzesco, fisico e tecnico, che abbiamo la fortuna di poter schierare in nazionale. Ma stiamo scherzando? Ma Balotelli è italianissimo, esattamente come Carlton Myers, che ha portato la bandiera, che ha fatto il portabandiera della spedizione italiana alle Olimpiadi. Ma stiamo scherzando? Io sono tifosissimo di Ronaldinho, quindi se riuscissimo a far sposare un italiano a Ronaldinho potrebbero farlo giocare nel campionato italiano. Ma che discorso è questo? Cosa c'entra Ronaldinho? Ronaldinho è brasiliano. Ronaldinho nella nazionale italiana sarebbe ottimo, ci salverebbe un mondiale. Allora, dico una cosa, secondo me oggi nella nazionale italiana possono giocare tutti quelli che hanno le carte in regola per giocarci. Io, ad esempio, una preclusione così intensa nei confronti di Thiago Motta non ce l'avrei, no? Amauri è un brasiliano che per via traversa del tutto legale ha ottenuto la cittadinanza italiana. Questo è un discorso, ognuno può avere la sua opinione, ma su Balotelli è italiano, quindi non stiamo scherzando, non c'entra nulla né con Ronaldinho né con i naturalizzati né con tutto questo. Questo è, perché sennò facciamo una confusione tremenda, anche un po' antipatica, secondo me, Paolo Roma, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Volevo fare delle considerazioni. Vabbè, anch'io sono milanista, quindi stendiamo un velo pietoso adesso. Quindi mi tocca parlare di Inter. E quindi volevo far presente questa cosa qua, che non esistono più, diciamo, i vecchi maestri, cioè gente come Lidl che faceva esordire Maldini, e alla fine anche Totti a 16 anni e mezzo, e già a 18 anni comunque erano dei pilastri della squadra. Sì. Infatti io trovo scandaloso che comunque Balotelli ogni volta si debba riconquistare il posto, e diciamo trovo anche abbastanza, come posso dire, diciamo, un limite di Mourinho, che in pratica la grossa difficoltà di quest'anno per un allenatore che aveva una squadra così forte a disposizione è gestire un talento come Balotelli. Poi grossissima altra difficoltà non l'aveva, il campionato lo vinceva in discesa e la Champions, anche per questioni statistiche, l'Inter andava a superare sicuramente i quarti, anche perché a livello internazionale ormai le squadre forti, fortissime, non sono come qualche anno fa, secondo me. Sì. Ci sta questo mostro del Barcellona, però così. E poi, infatti, secondo me, è questo qua il discorso che voglio fare, sulla incapacità assolutamente di gestione di Balotelli e sul fatto che poi, anche sul discorso del razzismo, che in Italia non è mai stato, diciamo, preso in considerazione, cioè quando lui è stato attaccato dai cori razzisti non c'è stato nessuno della squadra che abbia preso le difese di Balotelli, e anzi è stato penalizzato per quel tipo di atteggiamento, quindi è un po' solo contro tutti alla fine, e quindi così non sì, lo aiuta per niente. Bravissimo, Paolo, bravissimo, però a ficcarsi in situazioni al limite del difendibile, molto bravo a metterci del suo. Perché? Perché è così, perché ha questo carattere, perché la sua visione del calcio, come scrive oggi Gianni Mura, è balotellicentrica, perché per mille motivi, insomma, non ho voglia di andare dallo psicologo, dal sociologo, perché sono tutte cose, insomma, è semplicemente un ragazzo con una grande personalità e che ha la sfiga di avere un talento forse ancora più grande, perché è un giocatore che potrebbe diventare certamente uno dei più forti del mondo, non lo è ancora, però potrebbe diventarlo, deve fare i conti con un carattere molto complicato, molto difficile. Sulla gestione Balotelli sono state pure dette molte cose, evidentemente è un personaggio, un ragazzo che non piace Mourinho come modo di interpretare la professione, io credo che sia soltanto questo. È un giocatore che piace moltissimo invece, e condivido la valutazione, al presidente Moratti. Dunque, fosse stato per Mourinho, secondo me Balotelli non avrebbe giocato nell'Inter questa stagione. Invece è lì, invece l'anno prossimo le strade di Mourinho e di Balotelli si divideranno, come lo scopriremo solo vivendo. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Senti, facciamo così, non voglio avere la spada di Damocle del break pubblicitario sulla testa, perché la chiacchierata è interessante, perché prima ho detto che Si tratta di capire quanto c'è di herreriano nell'infortunio di Sneijder, qual è stata la giornata dell'Inter, qual è stata la giornata di Balotelli, chi salirà su quell'aereo per Barcellona, tutti i discorsi da affrontare con calma con Giovanni Capuano dopo la pausa. Regalato, acquistato, amato, detestato, sottolineato, fatto a pezzi, conservato. Qual è stato il primo libro della tua vita che ha saputo darti un'emozione? Radio 24 e il Salone del Libro di Torino ti invitano a raccontare la tua storia inviando una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it o visitando il sito radio24.it. Ogni sabato alle 21 Radio 24 premierà la mail più bella con due ingressi per il Salone del Libro di Torino. Tema di questa edizione: la memoria svelata. Perché in ogni libro c'è sempre qualcosa da ricordare. Sono l'amministratore delegato. No, troppo formale. La nostra azienda ha sede al MAC 567. Ecco. Work as you are. MAC 567. Il complesso di uffici disponibili a Milano in zona Maciachini. Info su mac567.com. L'energia che consumi può consumare l'ambiente. E allora che fai? Non usi più il rasoio elettrico e ti fai crescere la barba? Ah! A lei chi è? Ma come ha fatto ad entrare in casa mia? Fuori! Tesoro, sono io. Fuori da casa mia! Aia! Fuori! Sono io, tuo marito! Fuori! Ma fai male! Perché invece non scegli Sorgenia, che continua ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili? Pensaci, in 500.000 ci hanno già pensato. Sorgenia, l'energia sensibile. Ogni giorno tante storie, gesti, emozioni, sentimenti che si intrecciano. Ma il cielo è sempre blu. Da più di 500 anni, Banca Monte dei Paschi di Siena è con te, nella vita di tutti i giorni. Il cielo è sempre blu. Monte dei Paschi di Siena. Una storia italiana dal 1472. Guardare il mercato con Compass Linea Affari. Per ricercare clienti e fornitori e valutarne l'affidabilità, oggi basta un solo strumento. Compass Linea Affari. Chiama l'800 12 48 12. CompassLineaAffari.it. Volkswagen Caddy e Volkswagen Diego Fuel a metano è il veicolo pensato, per farvi risparmiare. Con Caddy Eco Fuel risparmiate due volte. Consumi ridotti e in più incentivi Volkswagen fino a 2.500 euro. Offerta valida fino al 30 aprile. Condizioni presso i concessionari Volkswagen veicoli commerciali aderenti all'iniziativa. Claudio, ma cos'è che c'è? C'è il Festival Internazionale delle Abilità Differenti a Bologna, Modena, Carpi e Correggio dal 2 al 30 maggio. Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Il programma è ricchissimo, spettacoli di danza, musica, teatro, convegni e mostre d'arte. E che qualità! Oh, vi aspettiamo, Tempo di sport. Messaggio: cosa significa herreriano? Che a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca. Nessun infortunio, è tutta pretattica antisportiva? Domanda un ascoltatore. Giovanni Capuano, torniamo alla Mix Zone di ieri sera e spieghiamo cosa vuol dire. Allora, diciamo che nessun infortunio magari no, perché qualche cosa nei muscoli fragili di Sneijder certamente ieri ha tirato, perché c'era un po' di preoccupazione, perché noi che l'abbiamo visto in faccia e alcuni giornali oggi l'hanno riportato, abbiamo visto comunque un'espressione abbastanza corrucciata di un giocatore che da qualche settimana sta giocando sul dolore e convivendo con il dolore. Poi il dubbio che forse quella diagnosi fatta ieri sera, che sostanzialmente toglieva Sneijder dalla partita del Camp Nou, potesse essere in qualche modo essere stata costruita a uso e consumo dei media spagnoli, ti dico la verità, ci è venuta. Noi ne abbiamo parlato anche nella tarda serata di ieri, perché c'è stato questo bollettino medico che è stato, voi dovete immaginare che la zona mista è un lungo corridoio in cui passano i giocatori, dove ci sono i giornalisti, prima delle televisioni che pagano, poi delle televisioni nazionali, poi delle radio, poi della carta stampata, e poi come nel caso di ieri sera ad esempio ci sono gli inviati delle televisioni, delle radio, dei giornali spagnoli e catalani. Ebbene, questo bollettino medico sulle condizioni di Sneijder Eder man mano ci si allontanava dalla zona italiana e ci si avvicinava alla zona spagnola, diventava sempre più preciso e sempre più inquietante, sino a diventare un profondo risentimento al retto femorale sinistro, con il giocatore praticamente quasi certamente assente nella gara di mercoledì contro il Barcellona, seppure con questo dubbio di alcuni esami che sarebbero stati effettuati nelle 48 ore successive, tanto che i colleghi catalani si sono immediatamente attaccati ai telefonini, ovviamente non vedevano l'ora di poter dettare ai colleghi in patria questo bollettino medico che di fatto privava l'Inter del suo giocatore più importante. Qualche metro prima, in questo corridoio che vi abbiamo descritto, l'infortunio di Sneijder era il fatto che l'olandese aveva sentito tirare questo muscolo dietro la gamba. Mourinho ovviamente aveva deciso di non rischiare per nulla il suo uomo più importante, quindi l'aveva tolto nell'intervallo. Sul campo nessuno si era accorto di niente, perché Sneijder aveva chiuso correndo il primo tempo, e quindi certamente che ci sia qualcosa è confermato dal fatto che oggi Sneijder non si è allenato, ha fatto fisioterapia, poi nel tardo pomeriggio svolge questi esami strumentali, e tutti all'Inter sono appesi all'esito di questi esami, che però in questo momento ancora non c'è. Però vista 24 ore dopo, rispetto a quanto era circolato nella serata di ieri, diciamo che la colorazione ha ripreso le tinte più del rosa che del nero, che sarebbe stato per Mourinho un'eventuale assenza, e sarà un'eventuale assenza di Sneijder, in mancanza anche di Stankovic, che è squalificato. Certo, quindi la tua sensazione è che ci sarà, che quello che giustamente definisci il giocatore più importante dell'Inter, perché è il vero trasformatore di energia dell'Inter, la tua sensazione ci sarà al Camp Nou? Guarda Carlo, questa scena noi l'abbiamo già vista tre volte in questa stagione, e tutte e tre le volte Sneijder ha giocato, non solo ha giocato ma è spesso stato anche decisivo. È stato così prima della trasferta di Kiev di Champions, è stato così prima della trasferta di Mosca di Champions, è stato così prima del derby di ritorno, e in tutte e tre le occasioni poi Sneijder c'è stato e ha fatto la differenza. A Mosca ha anche segnato la rete che è valsa la tranquillità dopo pochi minuti all'Inter, quindi io credo che davvero per rinunciare a Sneijder in una gara come quella del Camp Nou, Mourinho non debba avere la certezza di non poterlo avere nemmeno al 50%, ma perdere l'allenamento come ha fatto oggi, tra l'altro un allenamento che per chi ha giocato ieri è stato molto leggero, di fatto vuol dire perdere soltanto l'allenamento che l'Inter farà domani, perché quello di martedì sarà già di rifinitura, certo, e di assaggio del terreno del Camp Nou, non significa per un giocatore perdere la condizione, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. È evidente che Sneijder salirà su quell'aereo, è del tutto evidente che comunque le sue condizioni resteranno un punto di domanda praticamente sino al tunnel degli spogliatoi mercoledì sera. Però sinceramente io credo che Sneijder poi sarà in campo mercoledì sera, e questa era anche la convinzione che oggi si respirava da Piano Gentile. E per chiudere, invece, su quell'aereo che tu hai citato salirà Balotelli? Questa è una domanda, come direbbe Mourinho, $1 million. Allora, diciamo che di sicuro non è stato cancellato il suo biglietto. Oggi Balotelli si è allenato, tra l'altro è parso sorridente, distaccato, è arrivato ad Appiano Gentile non con la sua solita macchina ma con la macchina del suo procuratore, un po' non è stato riconosciuto dai tifosi, un po' è stato riconosciuto ed è stato ignorato, diciamo è proseguito quel senso di distacco che era già stato vissuto ieri a San Siro. Da questo punto di vista Moratti ha vinto la sua sfida depotenziando una situazione che era potenzialmente esplosiva. Balotelli certamente servirà. Anche qui l'impressione è che alla fine Mourinho potrà scegliere probabilmente di fare come fatto altre volte, cioè di portarsi a Barcellona un po' tutta la squadra, proprio per fare anche senso di gruppo e per tenersi vicini tutti quelli che possono essere utili, e tra questi potrebbe anche esserci Balotelli. Ci sono di mezzo 48 ore, visto quello che ci ha abituato Balotelli in questi ultimi giorni, vuol dire tante, che non si può dare nulla per scontato, perché è una situazione comunque fragile di equilibrio, basta una dichiarazione più che sua magari del procuratore. Basta davvero poco per far pendere da una parte o dall'altra. Però anche qui il biglietto per Balotelli non è stato disdetto. Balotelli oggi non ha riposato, come al limite poteva capirsi dai due giorni di riposo che gli aveva dato Moratti venerdì sera, quindi in realtà Balotelli è ancora dentro il progetto tecnico dell'Inter, anche perché serve. Pandev è recuperato, ma ancora oggi non ha fatto allenamento in pieno così come avrebbe dovuto, anche se su quell'aereo salirà e molto probabilmente sarà disponibile mercoledì sera, quindi più che mai Mourinho e l'Inter non hanno intenzione a scatola chiusa di privarsi di Balotelli. Certo. Poi ci saranno tante valutazioni che verranno fatte in queste 48 ore. Poi come dicevi mancano un sacco di ore e di questi tempi basta mezz'ora per cambiare tutto quanto, insomma. No, ma basta veramente poco, basta che Raiola risponda al telefonino a un giornalista dicendo la parola sbagliata è chiaro. E c'è il rischio davvero che salti per aria tutto di nuovo. Di sicuro l'intenzione e il lavoro che viene fatto in queste ore è quello di tenere dentro il gruppo Balotelli, pur sapendo che questo comporta dei problemi. Poi scopriremo martedì mattina se su quell'aereo Balotelli salirà o meno. Certo, grazie Giovanni Capuano e buon lavoro Giovanni Capuano, che seguirà per noi il viaggio dell'Inter a Barcellona. Leonardo da Ferrara, buonasera. Ah, buonasera. Niente, io vorrei esprimere la mia opinione sul parere che espresso molti esperti sul campionato di Milan e Juventus. Sì. Io credo semplicemente che non si tratta della rosa più ristretta dell'Inter. Non vedo questa grossa differenza. Sì, magari l'Inter ha qualcosa in più, ma non in termini di punti come poi il campionato ha detto. Penso semplicemente che la scelta di due allenatori giovani, magari dei signori come sono stati disegnati, magari chi sbagliando dal punto di vista tecnico, chi nella gestione dello spogliatoio, la scelta di questi due allenatori è stata semplicemente un errore, hanno sbagliato. Allenatori tipo Mourinho o Ranieri, Leonardo, non piace il suo modulo. Però ma a me piace la Roma che sta cercando di vincere lo scudetto e magari ce la farà anche. Secondo me è un po' fuorviante mettere insieme la stagione del Milan e quella della Juventus, perché la stagione del Milan tutto sommato è secondo me organico considerato invece brillante no. Però senz'altro Milan ha fatto quello che doveva fare e forse più di quel che poteva fare, forse più di quel che si immaginava potesse fare dopo l'estate, dopo le prime giornate di campionato. Quindi da questo punto di vista la stagione del Milan con un organico che secondo me è nettamente inferiore a quello dell'Inter, perché ditemi voi, pensate solo questo, foste presidenti di un grande club europeo con un sacco di soldi, quali giocatori prendereste dal Milan e quali giocatori prendereste dall'Inter? È un giochino, è molto banale se volete, però provate a rispondere a questa domanda. Quindi tra una rosa e l'altra c'è una grande differenza. Quella della Juventus ha ingannato un po' tutti, perché si pensava, insomma, la Juventus l'anno scorso è arrivata vicina abbastanza vicina all'Inter, in estate si è rinforzata, ha preso un grande giocatore, un bravo giocatore come Diego, e poi invece nulla ha funzionato. Quindi tra il lavoro di Leonardo, la scelta di Leonardo e quella di Ferrara c'è una differenza, tra la rosa del Milan e quella della Juventus e quella dell'Inter c'è differenza. Quindi mettere tutto insieme e dire hanno preso allenatori giovani, hanno sbagliato, hanno ciccato il campionato, è un po' semplicistico secondo me, perché il Milan la stagione non l'ha sbagliata. Arriverà terzo, io credo, a questo punto, e più di così onestamente il Milan non poteva fare con questo organico, e anzi è riuscito a rimanere in scia all'Inter, anche per demerito dell'Inter, molto più a lungo di quanto fosse lecito immaginare. Roberto Cosenza, buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera, mi sente? Sì, la sento bene. Allora ascolti, buonasera intanto. Io volevo intervenire proprio a proposito, voi avete appena parlato della stagione della Juventus e del Milan. Io invece volevo parlare adesso in modo particolare della questione allenatore per la Juventus, che diciamo secondo me sta facendo ancora una volta l'ennesimo errore, ecco. Convenitezza? Esattamente, perché io penso che Alberto Zaccheroni sia un grandissimo allenatore e che gli si possa dare la possibilità di partire con un organico adeguato, in quanto secondo me, ecco, l'organico della Juventus è a livello attualmente di quello di Napoli, Parma, ed è molto inferiore a Palermo e Udinese. Ecco, io penso che qui i fatti lo dimostrino. Molto inferiore a quello dell'Udinese, lei dice? Esatto, secondo me sì. Ma non lo so, secondo lei sì, secondo me no, Roberto, secondo me no, onestamente tra la Juventus e l'Udinese mi piglio la Juventus, col campionato che sta facendo di Natale, con Inler, Pepe, giocatori anche interessanti, però non scherziamo, insomma, mi sembra che la Juventus sia un pochino più forte rispetto all'Udinese. Credo che Zaccheroni sia un bravo allenatore, allenatore di grande esperienza, ma non so se possa essere l'uomo della ricostruzione. La Juventus serve un allenatore con tanti gradi, con tanti galloni sulla casacca, cosa che Benitez certamente ha, con le coppe dei campioni vinte, con le finali, con le stagioni disputate, con l'abitudine ad allenare a lungo anche in un grande club e a trasformare il Liverpool, a far tornare il Liverpool un grande club dopo anni piuttosto bui. Credo che la Juventus abbia bisogno di un allenatore di immagine anche, credo che la Juventus abbia bisogno di un allenatore anche comunicatore, se vogliamo, anche di grande personalità, anche un po' murignesco, se mi passate il termine. Benitez è molto molto molto diverso da Mourinho, quasi l'opposto, però anche lui è capace di essere personaggio, anche lui è comunque uno che, insomma, sa già parlare italiano, però come avrebbe imparato italiano nel giro di un'estate. Insomma, è un allenatore di questo tipo, è un grande allenatore. Se voi chiedete in giro, uno dei più grandi allenatori, degli allenatori più quotati del panorama calcistico internazionale. Ecco, io credo che la Juventus, per mille motivi, abbia bisogno di un personaggio così a condurla, non solo sulla panchina, ma anche dal punto di vista delle scelte societarie. La mia domanda è, compriamo la Ferrari degli allenatori, la Rolls Royce degli allenatori, la marca mettetela voi, non mi interessa, il concetto è chiaro, la compriamo, bene, abbiamo poi i soldi per fare l'assicurazione e mettere la benzina, abbiamo poi i soldi per fare la squadra che Benitez immagina venendo alla Juventus, ne servono tanti di quei soldi, serve tanta benzina e un'assicurazione molto elevata. Il mio dubbio è quello: davvero la Juventus ha così tanti soldi per costruire la squadra che Benitez pensa? Se sì, allora può essere davvero la stagione da cui ripartire quella che verrà. Traffico. Strade in diretta. A causa di un incidente avvenuto all'altezza di Novi Ligure, resta completamente chiusa la diramazione Predosa-Bettole tra il bivio per la 7 e quello per la 26 dei trafori verso quest'ultima. Chi viaggia verso il ponente Ligure quindi deve proseguire fino a Genova lungo la 7 Milano-Genova. Il traffico è rallentato per un incidente in uscita da Napoli sull'autosole tra la diramazione per Capodichino e Casoria. Per lavori invece code di 3 km sulla 5 Torino-Osta tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Code per lavori anche sul tratto friulano della 4 tra Redipuglia e Villesse verso Trieste e sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Colle Salvetti e Lavoria verso Firenze. Traffico di rientro intenso sul resto dei percorsi, code a tratti sull'autosole tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna e sulla 14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Code a tratti anche sulla 4 in Lombardia tra Desenzano e Grumello sulla carreggiata verso Milano. Sulle autostrade liguri il traffico è intenso e ci sono code a tratti in direzione Genova sulla 12 a partire da Chiavari e sulla 10 tra Finale e Savona. Rallentamenti anche in direzione Milano sulla diramazione Gallarate-Gattico e alle porte della capitale sulle due diramazioni dell'autosole sulla Roma-Civitavecchia lungo la 24 Roma-L'Aquila-Teramo. Per le vostre segnalazioni potete chiamarci al numero verde 800 08 3622. È tutto, Strada in diretta torna tra 30 minuti. A tempo di sport. Mi ha raggiunto Dario Ricci, così cominciamo a guardare insieme i risultati di basket in divenire. Ciao Dario. Buonasera, buonasera a tutti. Tra poco cominciamo a darveli, poi 8:30-9, solito appuntamento con col campionato di basket, stagione regolare che chiude, poi comprensibilmente lo stesso giorno di quella del calcio, però poi ci sono tutti i playoff, quindi si va a cavallo dei mondiali, ripeto, in maniera piuttosto incomprensibile. Che andare a pallacanestro, francamente non lo capisco, a pallacanestro italiana. Però torno al calcio perché voglio farmi dire da Filippo Maria Ricci, dalla Spagna, come si dice in catalano, ci giocheremo la pelle. no, mi mettete in difficoltà con, però in realtà è no, no decerem la pelle, la piel. Decerem, è un poco così, bisogna metterlo un po', ci vuole una R che io non riesco a pronunciare bene, sì. Però più o meno è quello il senso. Senti, ma certo non c'era bisogno di invitare, non c'era bisogno dello slogan pubblicitario, eh. Credo che, come dicevo prima, ci vorrà l'esercito per tenere fuori la gente dal Camp Nou. Non c'è certo un problema di biglietto di affluenza, eh. No, no, assolutamente. Conta che ieri una partita con l'Oxeres, che sua ultima in classifica, ha staccato di 60 punti, hanno fatto 82.000 e passa, diciamo, spettatori. Quarta, quarta partita per volume di spettatori della Liga di quest'anno. Con Real Madrid erano 97.000, però questa è quarta in classifica. E, diciamo, a livello di biglietti venduti mi sembra un dato decisamente, e comunque la cosa impressionante è il livello di turisti, cioè io ogni volta che vado, e ci vado spesso, rimango veramente colpito. Tu scendi nella strada che, diciamo, scende verso il campo, vedi e senti, diciamo, vedi le facce e senti parlare qualsiasi lingua. Certo. Posso, non so, 15-20 solo in quei 300-400 metri, c'è gente di tutto il mondo che viene a vedere il Barcellona. Ma il Barcellona Football Club è diventato un'attrazione turistica, né più né meno, della Sagrada Famiglia, no? La Barcellona è veramente un monumento, veramente un monumento cittadino. Sì, perché tu devi pensare che il museo è il secondo museo più visitato della Catalogna, 1.200.000 visitatori lo scorso anno, che non mi sembra poco. Conta che la Catalogna ovviamente ha autori di basso livello, quali Picasso, Dalí, sì. Miró, no? Gente che non conta così. Niente, sì. Esatto, e loro sono il secondo. E poi la cosa bella è che se tu sei un abbonato e quel giorno c'è una bella giornata e la famiglia ti dice no, oggi la partita non te la vedi e vieni al mare con noi, tu telefoni al club o anche direttamente su internet, fai sapere, c'è tutto un macchinario predisposto, fai sapere che lasci libero il tuo posto, il club se lo prende, lo rivende per tuo conto fino a mezz'ora prima della partita e ti dà i soldi e tu te ne vai, non perdi soldi, non vedi la partita e il tuo posto può essere preso da un'altra persona. Grandi. Come da noi, no? Che devi andare con il passaporto, il giapponese in fila lì, il passaporto, prendere gli schiaffoni, puoi essere perquisito alle mutande dagli agenti e poi il tornello, se funziona bene, se non funziona vediamo e poi la domenica mattina, cioè noi ancora la domenica mattina, se non sbaglio, in Italia non si possono più comprare i biglietti, no? Cioè il giorno della partita non è... Ma non mi ricordo, non lo so. Qua si arriva fino sicuro... a mezz'ora prima, sono direttamente sicuro... su internet. Sì, sì. Sono sicuro del fatto che andare allo stadio è un'impresa quasi disperata. Per costi e per difficoltà. Cioè, è una serie di step e di cancelli. Devi continuare a saltare cancelli, poi magari riesci ad entrare, forse, avendo il biglietto in mano. Ovviamente tutto questo non abbiamo ancora parlato poi del calcio. Bravo. No, che vai a vedere. No, stiamo divagando molto amabilmente. No, volevo chiederti questo che mi interessa. Quella maglietta che ho scritto in catalano, come tu hai detto meravigliosamente prima, ci giocheremo la pelle. Prima un ascoltatore domandava, ha ragione secondo me, ma non è il modo del Barcellona di urlare nel bosco, di chi ha paura? Non è che Mourinho ha aperto una crepa nelle loro certezze, ha aperto una falla nella corazzata? Bravo l'ascoltatore, è assolutamente così, perché voglio dire, il giorno prima in conferenza stampa Guardiola dice no, ma noi adesso pensiamo al CRS, cerchiamo di dimenticare l'Inter, però intanto nella notte preparano le magliette, quindi non mi sembra che non stessero pensando all'Inter, perché finito al 90esimo, metterci una maglietta così al 90esimo, a me insomma è un segnale forte, come dire, abbiamo bisogno di voi perché noi da soli abbiamo una gran paura di non farcela. Stampa, un po'... stampa catalana ha fatto un gran baccano, intanto? Ha preparato bene la partita? Sì, però sono stati tremendi subito dopo la partita di Milano, abbastanza patetici con questi furto, rapina, furto all'italiana, però vabbè, insomma sono anche giornali di un livello comunque non eccesso, permettimi di dirlo, insomma, e vabbè, e adesso no, hanno paura. Perché hanno paura soprattutto poi anche dell'effetto Mourinho, che comunque è uno che a volte poi ha anche perso nei suoi grandi scontri col Chelsea contro il Barcellona, non è che gli è andata sempre bene, anzi con l'Inter nelle prime due partite del gruppo ha preso delle mazzate, però sanno che è uno che sa preparare bene le partite e io penso che ci si renda conto che ha qualcosa in più rispetto a Guardiola su questo piano. Ed è lì che loro hanno, cioè scatta il grande timore. Perché comunque non dobbiamo dimenticare che Guardiola allena da un anno e mezzo, a grande livello, ha vinto tutto, però nello scontro dialettico, in questo tipo di cose particolari, forse ancora perde qualcosa da Mourinho. Filippo, la stampa italiana invece ipotizza un Barcellona già all'opera dietro le quinte per quello che è l'arbitraggio, no? Sarebbero ben graditi a fischietti tipo Augo, De Blecher, che certo... Che arbitrerà questa partita. Infatti, insomma, credi che da questo punto di vista sia già stata una vittoria del Belgrano? A me, io queste non mi sembrano grandi... No, io non la vedo così... E alla fine, voglio dire, il Barcellona è stato clamorosamente, sfacciatamente aiutato l'anno scorso da Ovrebro nella partita col Chelsea, però io, voglio dire, mi viene da dire, io direi sono cose che succedono, voglio dire, non c'è un piano, non è che si mettono a discutere, piuttosto ha fatto molto scalpore a Barcellona la presenza di Figo in campo per parlare in portoghese col quarto arbitro. Questo, diciamo, se Figo già gli hanno tirato un bel maialino in un classico contro Real Madrid, insomma, non si è fatto nuovi amici a Barcellona, anzi, però io non vedo che questo tipo di congiure, non lo so, forse vivo all'estero da troppo tempo, forse sono ingenuo, però non vedo un terreno così di questo tipo, non mi sembra. Beato te. Senti, c'è qualcuno che lì crede che Snyder non giocherà? Qua penso che l'Inter stia lavorando bene in quel senso, lo danno per fuori. E come... Penso che ci sia un buon lavoro da parte della comunicazione. Tu cosa scrivi invece sulla Gazzetta di domani? Domani abbiamo varie cose, si ritorna sul discorso della maglia, il fatto che ci sarà un punto d'accoglienza per i tifosi, e poi ho varie, ieri sera raccolto, diciamo, una prolifica zona mista con, diciamo, Yaya Touré che parla di Balotelli anche. Cosa dice? No, insomma, è rimasto la faccia che ha fatto quando gli ho chiesto è abbastanza indicativa, è rimasto molto colpito da quello che è successo nel tunnel e poi negli spogliatoi, penso. Insomma, un giocatore del Barcellona non è abituato a sentire certe cose. E no, in generale, comunque, c'è la netta sensazione, ovviamente, no, questi si giocano un po' la stagione, al di là della Liga, nella quale sono ancora, no, in vantaggio e possono mantenere questo vantaggio sul Real Madrid, però insomma la sensazione è quella che questa partita con l'Inter sia diventata improvvisamente molto complicata. Grazie Filippo, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio. Ne hai bisogno, caro Filippo Maria Ricci. Chiudiamo dando un'occhiata ai risultati di basket. Io e Dario Ricci, visto che, come detto, dalle 8:30 vi raccontiamo tutto su queste partite, arrivate quasi tutte all'intervallo, insomma. Sì, siamo intorno all'intervallo, 12esima di ritorno. Nell'anticipo del pomeriggio, Roma sbanca il Fila Forum di Milano 66-64. Poi gli altri parziali: Montepaschi Siena, Benetton Treviso 40-39, Banca Terca Steramo, Scavolini Spar Pesaro 36-33. Carife Ferrara, Sigma Coatings Montegranaro 29-33, Cimbelio Varese, Pepsi Caserta 38-34 e poi Canadian Solar Bologna, Vanoli, Cremona 35-29. Carlo, quindi apertissime soprattutto anche le due sfide che interessano in particolare la zona salvezza. Eh sì, è tempo di verdetti non solo per il campionato di calcio, ma di verdetti, di intertempi quantomeno, perché poi i verdetti veri arriveranno con i playoff. Per il campionato di basket, ad esempio, c'è Treviso che è ampiamente in partita a Siena, ma d'altra parte la Benetton si gioca proprio oggi a Siena le ultime carte possibili utili per arrivare nei playoff, e poi c'è chi invece combatte per la salvezza, come Cremona sotto a Bologna, come Ferrara che è sotto invece in casa con Montegranaro. Chiave salvezza, giornata importantissima questa, perché si tratta di decidere quell'ultimo posto che porterà in Lega 2. Ne parleremo naturalmente più tardi, dalle 8:30 alle 9, con risultati, voci, numeri, tutti i temi di questa giornata del basket. Quindi seduta giornata più tardi.